This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Che sta succedendo? Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione. Quali figli di puttana? Quegli stronzi del partito nazista. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. Hai Hitler! Hai Hitler! Sì, signore. Prendi il numero di targa di quella macchina. Sì, signore. Dobbiamo eliminarlo, quel figlio di puttana. Troublesome. Step aside for the troublesome. Questa è un Pantera, siete in diretta qua su Radio Città del Capo, infatti sono le 21:24 minuti primi e oggi è il 31 marzo del 2016. Ebbene, dicevamo in apertura, sì, magari stiamo un po' esagerando con tutte queste sonorità pesanti, però un po' perché Phil Anselmo, il cantante di Pantera, se n'è uscito con questa, non si capisce bene, era sicuramente un po' bevuto, un po' alterato, non si sa quanto. Se ne è uscito con questo saluto romano inneggiando il White Power, noi ci siamo chiesti ma cos'è questo White Power? Poi scavando si scopre che in America ci sono vari gruppuscoli, movimenti di estrema destra inneggianti al potere bianco, alla supremazia bianca, che si possono più o meno raggruppare in una parola, si chiama suprematismo appunto, i suprematisti bianchi. Beh, comunque, diciamo che Phil Anselmo, chi l'ha conosciuto nei primi, negli anni 80 e primi anni 90, giura, io parlo di comunque critici musicali, perché comunque si dibatteva un bel po' in quel periodo, giuravano che comunque è un buon tempone e che comunque eccede a volte nell'alcol, nelle bevute e dice queste cose. Però mi ricordo che anche nel 96 ebbe modo di scontrarsi con dei rapper statunitensi, appunto perché lui diceva che i rapper neri possono dire black power e lui che è bianco non può dire white power perché altrimenti passa per un razzista. Quindi si era un po' scontrato anche con altri generi che in quel periodo andavano tanto. Non lo so se era poi di facciata, comunque diciamo che lui ha sempre fatto parlare di sé per questi motivi. Però, ripeto, c'erano chi ci giurava che comunque davvero Phil Anselmo, chi lo conosceva personalmente, non aveva proprio quest'indole puramente razzista. Poi io non lo conosco personalmente, è quello che comunque... Certo, è quello che possiamo vedere dai media, ma lo potete vedere se guardate... In fondo al blog che abbiamo, si chiama thisisnotanexit.altervista.org, c'è appunto un articolo, un link ad un articolo del Guardian che spiega molto bene questa cosa è successo e cosa vuol dire fare un'uscita di questo genere in un mondo come quello del metal, che è sempre stato ambiguo, sempre stato considerato qualcosa di a metà, comunque qualcosa che un genere musicale che sicuramente scavava nel torbido, ma non per questo la maggior parte degli ascoltatori e dei musicisti metal debbono per forza di cose essere razzisti. Statisticamente, con ogni probabilità, per quanto li frequenti, sono razzisti o nazisti tanto quanto gli appassionati di auto storiche. Non ce ne vorranno, spero, i collezionisti di auto storiche, quando li abbiamo citati più o meno a sproposito per dire un dato statistico, per paragonarli agli appassionati di heavy metal. L'heavy metal è una musica, è una passione e ovviamente c'è dentro un po' di tutto. Quello che diceva prima il dottor Scarpa invece sul suprematismo nero, beh certo, esisteva Malcolm X, esistevano le Black Panther, che erano un'altra cosa, esisteva Louis Farrakhan, il Nation of Islam, quindi sì, c'era qualcosa di simile, ma è una cosa un po' diversa. Malcolm X diceva tante cose, tra cui anche il ribellarsi al potere bianco, anche tramite le armi, perché sosteneva che da solo il sistema non si sarebbe mai potuto convertire e assorbire la nazione nera. Però insomma, rispetto a gruppi paramilitari che si armavano fino ai denti, si fortificavano in casa, combattendo addirittura le due istituzioni che andavano a stanarli, cioè la Rifle Administration, che è una società che serve per controllare le armi, esiste, anche se qua in Italia si pensa che non esiste nessun organo di controllo negli Stati Uniti, no, esiste, ci sono dei limiti alle armi che una persona si può comprare, anche se sono oltremodo alti rispetto a una concezione europea, e ovviamente all'FBI. E infatti nel periodo in cui noi ci stiamo muovendo, questo disco del 90, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli 90, è successo un sacco di stragi, di episodi strani, di accerchiamenti, fino alla bomba di Oklahoma City del 1996. Comunque, tornando al discorso musicale, sicuramente il metal ha avuto insomma anche altri gruppi nel periodo. Se non sbaglio, gli Slayer, che è di origine cilena, inneggiavano fra virgolette a Pinochet, quindi insomma il genere ha avuto sempre questa doppia faccia, no? Voglio dire, da una parte parlava insomma di cose un po' generiche, però poi a volte facevano testi che lasciavano un po' basiti gli ascoltatori. E anche i Pantera erano questo tipo di gruppo. A un certo punto partiva il pezzo che magari diceva: questi qua sembrano razzisti, però insomma è sempre poi da contestualizzare certe cose. Crucified for no sins, revenge. Questa è This Is Not an Exit, sulle frequenze di Radio Città del Capo 94.7 96.250. Lasciamo anche i numeri di telefono per chi volesse così interferire, insomma, con un sms, qualcosa. 348 76 49 289 per gli sms. Il numero della diretta è 051 24 19 10. Stasera stiamo parlando di Pantera, per approfondire poi un altro discorso con razzismo nel metal, diciamo, no? Nello specifico un po' nel metal, ma a sto punto non solo, oltre al fatto che Phil Anselmo abbia fatto questa uscita, ma tutti voi avrete visto in TV un biondo signore ormai un po' attempato lanciarsi ossigenato, più che biondo. Sì, è vero, ormai ossigenato, non ho mai capito se abbia un parrucchino o meno. Beh, l'avete capito, il preferito candidato tra i repubblicani, insomma, per l'elezione del 2016, Donald Trump, ex palazzinaro, bancarottiere, poi insomma come le finici, no? Questo si ricrea, ricomincia a fare soldi, e un po' come un altro personaggio che ha dominato la nostra scena politica italiota, ha pensato bene di candidarsi, e con estrema efficacia. Beh, evidentemente certi discorsi fanno presa sulla pancia di molti, non solo in Europa, in Italia, ma anche al di là dell'oceano. Tra l'altro, insomma, anche il suo stesso partito a volte fa finta di non accettare i discorsi, però non lo so fino a che punto. Alla fine, se poi comunque gli porta la Casa Bianca ai repubblicani, penso che poi il voto a stomaco possa passare anche a loro. Noi, cioè, ci auguriamo che sicuramente non vada un personaggio del genere, altrimenti davvero... Tra l'altro ricordo che c'erano molti che guardavano come andare a vivere in Canada, perché molti si promettevano che se dovesse vincere mai Donald Trump, la prima cosa che farebbero, insomma, è andare a emigrare in Canada. Avremmo dovuto farlo noi nel 94, vabbè. Troppo tardi ormai. Into living air. Insomma, il suprematismo rappresenta praticamente la frangia più oltranzista dei razzisti americani. È un passo dal neonazismo. E tipicamente sono individui singoli, fanatici, gente che è molto marginalizzata, che non è proprio al pieno della società americana. Poi però ci sono anche quelli che sono più pericolosi e che formano gruppi e magari gruppi armati. Ovviamente il più famoso di questi è il Ku Klux Klan. E come dicevamo prima, Donald Trump ad esempio è un po' osteggiato, un po' no, dal Partito Repubblicano, ma perlomeno fino agli anni 60-70 il Partito Repubblicano non è che osteggiasse apertamente questi gruppi paramilitari. Sì, che poi sarebbe sbagliato pensare che sia il suprematismo, insomma, sia un fenomeno anacronistico del profondo sud. D'altronde i Pantera vengono da uno stato del sud, dal Texas, da Houston per la precisione. Però, insomma, la realtà è che comunque il rifugio ideale dei suprematisti è sempre stato il Midwest. E, d'altronde, molteplici movimenti razzisti ricondotti, insomma, all'ideologia di David Duke, uomo che nell'84 propose addirittura una risistemazione delle minoranze etniche in zone denominate Minoria, West Israel e New Africa. Sembra vero, Occitania, cioè cose, no? di un tempo andato. È che sembra anche una barzelletta, ma non lo è. Sì, infatti poi loro pensavano, insomma, di fare il grosso degli Stati Uniti, naturalmente ariano, poi piano piano, insomma, negli anni 90 hanno un po' abbassato le pretese e hanno ridotto, insomma, a chiedere le zone del nord-ovest, insomma, si sono accontentati un po' dell'Oregon, di Washington, dove c'è Seattle, e Idaho e Montana, piccoli stati, insomma, non tanto piccoli, comunque il Washington è stato abbastanza grande, loro si accontentavano di quelli del nord-ovest. E insomma, i suprematisti volevano le foreste immense della a fare i tagliaboschi dalla mattina alla sera, forse. We'll be right back. Siete sempre in diretta qua dagli studi di Radio Città del Capo e siamo sempre in compagnia di Pantera. Beh, insomma, non abbiamo ben capito fino a che punto Phil Anselmo sia un fervente razzista o magari un suprematista bianco. Io non credo. Sicuramente, o molto probabilmente, è cresciuto in un ambiente, quello del sud degli Stati Uniti, dove con buona probabilità, ci sono stato solo una volta, il razzismo è contro i neri, contro gli afroamericani, come li chiamò Malcolm X, cominciò a chiamarli Malcolm X appunto una sessantina di anni fa, è endemico, molto, molto diffuso, se non, insomma, comunemente accettato. E probabilmente Phil Anselmo e Pantera tutti sono cresciuti in un ambiente di questo tipo che quantomeno ti permea. Poi, come diceva prima il dottor Scarpa, giustamente, quando sei poi bevuto o peggio ancora drogato in qualche modo, può anche scapparti che ti venga fuori la cattiveria intrinseca che hai fatto tua sentendoti in un contesto di quel genere. Poi non è facile parlare di segregazione di altri popoli, di altre razze, di altre etnie. Probabilmente ti svela un sentirsi proprio fragile. Infatti, molti di questi gruppi separatisti sono saltati fuori apertamente, a parte il Ku Klux Klan, che ha origini remote, della fine dell'Ottocento, dopo la guerra di secessione, ed era esplicitamente formato da gente che si vedeva deprivata dei propri diritti di uomini bianchi rispetto ai neri, che erano schiavi, nel sud. Beh, insomma, questi gruppi invece nascono negli anni 60, quando i diritti civili cominciano a far sì che anche la democrazia americana si debba rendere conto e prendere di dover proteggere le minoranze, neri e anche donne, omosessuali. Da questo momento tutto cambia, l'FBI e magari anche l'esercito cominciano a scortare, per esempio, famosissima scena quando scortano il primo studente americano, penso nell'università dell'Alabama, non certo uno stato progressista. Beh sì, di episodi, insomma, in qualche modo catartici per la società statunitense ne abbiamo tanti, quando anche una studentessa che praticamente era seduta, insomma, non, si rifiutò di alzarsi e lasciare il posto a un bianco, insomma, è anche uno di quelli casi emblematici. Ma d'altronde comunque il razzismo permea tuttora la società americana, no? Abbiamo detto prima di Donald Trump che non vuole far entrare musulmani, insomma. Però insomma qualcuno pensava, no, ingenuamente forse, che almeno nella musica, un certo genere, nel metal, no, quello comunque, insomma, che dovrebbe un attimo tendere a una certa ideologia, insomma, e invece si è scoperto che annida tra le proprie fila un certo razzismo, che però comunque a volte si è stato poi, insomma, ritrattato, a volte no, insomma, comunque l'ambiguità permea anche questo genere. Negli anni 70 in Inghilterra era forse l'OI, lo skin, il movimento che non si capiva, che aveva anche all'interno delle incongruenze. Ricordiamo, insomma, le lotte a Notting Hill fra skinheads di destra e di sinistra, chi ascoltava musica reggae e chi invece odiava assolutamente tutto quello che veniva dalla Giamaica. E anche, insomma, il metal statunitense per certi versi ha preso un po' da questo genere. We'll be right back. 22 e 13 minuti primi, siete sempre in diretta su Radio Città del Capo, questa è This Is Not An Exit. Abbiamo straparlato di ariani bianchi in giro per gli Stati Uniti, non solo nel sud, avete sentito, se ci avete un po' seguito con un po' di pazienza, la società occidentale, forse non solo quella americana, di cui spesso parliamo, ne è permeata, quantomeno di un minimo di xenofobia. Sicuramente anche la società europea non può sentirsi immune. Comunque, per oggi abbiamo parlato soltanto di quello che conosciamo un po' meglio. Per quanto mi riguarda, lo ripeto, il metal in sé, come musica, come tanti altri filoni musicali, non penso sia, anzi, non lo è, non è dichiaratamente estremista di destra, anzi, penso che la maggior parte dei musicisti e degli ascoltatori di heavy metal siano apolitici. Il metal spesso parla della forza dell'unità, della sconfitta dei cattivi, dei malvagi, sono anche cose abbastanza magari ingenue, del trionfo della verità sopra l'oscurità, temi tipici del gothic metal, anche del black metal, anche se dobbiamo dire che spesso, soprattutto alcuni gruppi black metal di cui abbiamo parlato in passato qua a This Is Not An Exit, si sono magari rivelati anche, che ne so, anticristiani, satanisti e quant'altro, ma non si è mai capito anche lì fino a che punto ci credessero, quanto fosse parte del gioco, cioè per vendere. Gli Slayer ci hanno sempre giocato tanto, li abbiamo citati anche prima. Angel of Death, uno dei loro brani più belli, più famosi, parla del dottor Mengele, il famoso dottore di Auschwitz. Beh, non è che inneggiasse esattamente lui, ma di sicuro, e questo è quello che fa il metal, scavava nel marcio, in quello che di marcio c'è, cioè nell'animo umano. Mengele ne è un ottimo esempio. comunque sì, a proposito di, insomma, se ci facevano, insomma, se ci fanno, se ci credono, comunque prendere comunque di mira in quel periodo il rap, che comunque vendeva un tot, comunque magari, no, può anche dare l'idea che Finanzelmo voleva magari togliere un po' di vendite di dischi al rap e portarseli verso il proprio gruppo, magari, visto che comunque tanti bianchi compravano dischi di rap neri. Allora magari può anche essere un discorso abbastanza anche commerciale, volendo, se proprio vogliamo dirla. From evolution, we've been killing each other. I think your man should have it down to a science. No chance, not for a minute, not for a second. I won't be defensive, I'm straight out. In my opinion, you better listen to a man who knows what he's saying. I'll see your side, you're riding high from the mere fact that you feel inferior. Be superior, and now you're inferior. Race, pride, prosecute. Black man, white man, no stand. Living the past, we Beh, con questo speriamo di non avere sfondato i vostri timpani, perché i Pantera non ci andavano certo leggeri. Gran brani comunque, ricordiamo che musicalmente diedero una bella svolta. Aggiunsero un tocco di groove, un sound, quello del thrash metal che ormai si andava inaridendo e vendettero tantissimo. Beh sì, sicuramente i dischi li vendevano. Poi il discorso, insomma, abbiamo già affrontato il discorso testi e vabbè. E d'altronde forse non gli bastava, volevo anche prendersi le vendite dei dischi rap. Vabbè, è una battuta, rimane quella. Però insomma, c'è da pensare su questa ambiguità dei gruppi metal. Con questo ci salutiamo, diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21.05 circa, sulle frequenze di Radio Città del Capo 94.7 e 96.250. E buonanotte a tutte e a tutti. Buonanotte.